conosco Mauro da tantissimo tempo, naturalmente ci conosciamo tutti nell'ambiente dei disegnatori satirici, è un rapporto di lunga amicizia e di lunga, anche non dico litigio, ma comunque visioni abbastanza diverse della satira. Spesso l'ho accusato di essere un po' un talebano, un po' uno che va giù pesante con troppe sicurezze. A me piace una satira un pochino più dubitativa, insomma, in cui ci si avvicina ai problemi in chiave così dubbiosa, interlocutoria, e lui invece urla molto con grande sicurezza tutta una serie di posizioni, e quindi a volte non mi piace. E non è questo il caso, mi sembra che anche le reazioni così permalite, insomma, da parte dei ben pensanti nei confronti di certe vignette, in particolare di quella lì con le casse da morto, mi sembra una splendida vignetta, molto bella, molto forte, ma molto giusta, insomma, no? Che non offende assolutamente le vittime del terremoto, ma anzi mette il dito in un aspetto importante di questa Italia contemporanea, insomma, in cui la corruzione e l'affarismo più cinico e terribile sono poi quelli che stanno alla base di tanti disfacimenti della società e del territorio. Quindi dico tutto questo perché è una doppia solidarietà che gli do, insomma, una solidarietà perché riconosco quella vignetta e la firmerei insieme a lui tranquillamente, come tutte le altre che ha fatto quella sera. E l'altra solidarietà è la solidarietà volteriana, che deve essere sempre presente, insomma, perché anche ammesso che non condividessi quello che ha fatto, è veramente importante che lui possa continuare a dirlo, a farlo, a disegnare, che tutti noi si possa, nel pluralismo proprio libero e civile, ecco, poter continuare a esprimerci. Quello, quindi, è un attacco alla libertà di stampa, alla libertà di pensiero.